Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 9 aprile 2015. Realtà aumentata. Dopo i giochi, ora si usa anche in azienda. Prima sono arrivati i browser Wikitude e Juneio, che ci permettono di trovare il ristorante, l'albergo o il parcheggio semplicemente puntando lo smartphone verso la piazza o la via che abbiamo di fronte. Poi è stato il boom dei giochi per console e per telefono mobile, capaci di offrire avventure 3D quasi reali. La realtà aumentata piace sempre di più grazie al costo ridotto che hanno ormai i componenti e alla larga diffusione degli smartphone. Secondo gli ultimi dati, i dispositivi mobili in circolazione che supportano la realtà aumentata sono oramai vicini a quota 3 miliardi. Ora, per la realtà aumentata, sembra arrivato il tempo delle applicazioni professionali, dal settore industriale a quello dei servizi, con qualche prima puntata anche nel settore agricolo. Fin qui la notizia del 9 aprile 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente, in questo 2012. La previsione di un boom della realtà aumentata è stata confermata di recente da IMS Research, ma sulle future applicazioni di questa tecnologia possiamo fare solo supposizioni, come spiega Filippo Renga, docente al Politecnico di Milano e coordinatore degli osservatori Mobile Consumer della School of Management del Politecnico. In primo luogo possiamo essere certi che sarà un fenomeno significativo e importante. È un po' da capire quali saranno i maggiori ambiti di applicazione di queste tecnologie, di questi nuovi servizi, considerando anche che nel mondo della telefonia mobile la diffusione dei servizi molto spesso passa attraverso servizi più consumer, per cui servizi legati al mondo dei giochi, servizi legati all'intrattenimento, ma può essere anche applicato in ambiti più business. Sono stati fatti vedere anche recentemente delle applicazioni della realtà aumentata anche nel mondo industriale. Se pensiamo ad esempio a un manutentore davanti a una macchina che ha determinati problemi, la realtà aumentata può visualizzare le problematiche direttamente sullo schermo del telefonino, puntando il telefonino sulla macchina o il tablet nel caso sia un intervento complesso, e riceve indicazioni anche visive, proprio puntando sulle modalità, sulle istruzioni per poter migliorare questa macchina. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.